intanto quello che sta succedendo in regione, nel consiglio e nella giunta, cioè abbiamo sentito parlare molto spesso in questi giorni anche dai consigli regionali, dai consigli comunali, una situazione di democrazia sospesa, quindi dei meccanismi un po' alterati per affrontare una situazione di crisi che però molto spesso non lasciano spazio alle opposizioni, richiedono un'aderenza pressoché totale alle decisioni della giunta, quindi intanto questo. Sì. Ma dunque, ora non so se si può parlare di democrazia sospesa, però certamente tra giunta e consiglio non c'è molta comunicazione e la giunta in qualche modo agisce senza poter consultare il consiglio. Di solito il consiglio dovrebbe dare indirizzi alla giunta, ma però questo non è in questo momento soltanto, ma è frutto da insomma di anni. Io credo, ma diciamo nel 2015 sono stato nominato consigliere regionale e volta a volta vedo di anno in anno patire questa comunicazione fra consiglio e giunta. Le decisioni si prendono altrove, non nel consiglio. Poi l'opposizione ovviamente fa il suo ruolo, noi cerchiamo di fare un'opposizione di sinistra, non di destra ovviamente, e quindi ci troviamo un po' male con le opposizioni di destra, però diciamo che in qualche modo cerchiamo di fare qualche cosa di utile e qualche volta ce l'accettano. Ora in questo momento è difficile dire perché se si può intervenire in 3 minuti e poi si bloccano tutte le emendamenti, devono farne uno unico, insomma, perché il consiglio telematico non è un consiglio. Non è un consiglio perché non c'è dibattito, quindi capisco che sia difficile fare un consiglio telematico e quindi riassumono un po' tutto, ci costringono a intervenire per non più di 3 minuti, ci costringono a levare le interrogazioni, le mozioni, insomma. Però ecco, questo credo sia frutto più del consiglio telematico che non del rapporto giunta consiglio. Bene, ora no, fra l'altro questa non è neanche a nostro modo di vedere la priorità in questa situazione emergenziale. Ci sarebbe un po' di priorità perché qualche decisione della giunta dovrebbe essere migliorata, per esempio quella che la legge per dare soldi ai sanitari. Doveva essere emendata, avevamo posto molti emendamenti e ne riproporremo altri, speriamo che ce la possiamo fare. Ecco. No, allora la domanda principale che stanno a cuore sono quelle relative alla questione sanitaria, che come sappiamo è gestita dalla regione, fra l'altro lei ha lavorato anche per tanti anni all'interno dell'ospedale, quindi siamo un po' a chiedere uno un giudizio su come è stata... Ma diciamo che non è stata brillante all'inizio, perché forse non ce l'aspettavamo, ma in tutte le regioni è stato così, anche in tutti i paesi in qualche modo. L'unica cosa che doveva il governo e quindi la regione toscana doveva utilizzare i protocolli per la pandemia, c'erano. Noi abbiamo trascurato tutte queste distanze di sicurezza, mascherine adeguate e quindi abbiamo fatto sì che molti degli infermieri, delle ostetriche, dei dottori si siano infettati e quindi ora abbiamo carenza, oltretutto non dobbiamo pensare che siano ammalati, ma certamente portatori, e quindi insomma dobbiamo metterli in quarantena. Allora, già che avevamo tagliato tutti i servizi, ora ce ne vuole ancora di più. Quindi questa quarantena, questa, scusa, questa epidemia è stata gestita male, proprio perché si è rincorso l'emergenza senza avere poi prima possibile un piano che non dovessimo andare all'emergenza. Insomma, i respiratori sono stati l'emergenza, invece senza le protezioni sanitarie. Fra l'altro, proprio su questo abbiamo visto come il sistema, diciamo, ospedaliero abbia subito, insomma, tagli negli anni passati e come ha risposto, insomma, con varie zone d'ombra. Abbiamo soprattutto però visto il sistema sanitario territoriale, quello della medicina di base. Esatto, questo che è stato. La situazione è veramente disastrosa. Quindi la domanda è: in seguito a queste realtà che sono venute fuori, si è acceso un dibattito all'interno del Consiglio, all'interno della Giunta, che diciamo lasci sperare in un stanziamento di fondi, miglioramento e capillarizzazione di un sistema sanitario territoriale? Allora, il merito, che se possiamo dire il merito di questo coronavirus, ha fatto sì che finalmente si è rivalutato il servizio pubblico anche agli occhi dei cittadini e soprattutto il territorio. Noi avevamo detto, quando la riforma dei Rossi del 2015 era inadeguata, soprattutto perché tagliava, perché accorpava, ma soprattutto perché non pensava al territorio. Loro negavano, no, ecco, ora se ne sono convinti anche loro. Quindi per fortuna si dovrà andare in una strada diversa da questa riforma Rossi, rafforzare il territorio e soprattutto noi ponevamo un problema che i medici di medicina generale come i pediatri non hanno un contratto nazionale del servizio sanitario nazionale, hanno un contratto libero professionale in qualche modo, quindi non si può mettere a lavorare tutti questi soggetti in un servizio sanitario dove ci può essere disponibilità a cambiare le notizie, a cambiare il modo di lavorare, a cambiare sede, insomma in qualche modo, no? Ecco, quindi sono liberi professionisti e in qualche modo non possiamo dare indicazioni della regione a vedere di fare tutta una rete in qualche modo. Ecco, anche a questo ora si sta rimediando, però secondo me se non si rimedia nel contatto nazionale dei medici di medicina generale e si mettono nel servizio sanitario pubblico, non ci sarà modo di fare tutto quello che deve essere fatto. Ecco, un'altra fascia molto colpita e tra le più vulnerabili per definizione è quella degli anziani e delle case di riposo. Pensate di, diciamo, il Consiglio, la Regione pensa anche di rivedere la gestione della cura del paziente anziano, oppure va tutto bene così in mano a RSA e case di riposo private o convenzionate? Esatto. Adesso paghiamo la delega al privato delle RSA perché non abbiamo la gestione diretta e quindi cosa possiamo fare se non indagare la magistratura, capisci? Allora, tutta questa delega al privato che sembrava la panacea per rimediare agli servizi, ora sta venendo fuori, vedi la regione Lombardia in qualche modo. Quindi anche loro ora pensano di ripopolare, diciamo, RSA pubbliche. Però ci vorranno tanti soldi. E questo, se si prosegue ancora con i tagli alla sanità, non potrà essere gestito. Ma ha ancora senso parlare di una sanità regionale? Dunque, la sanità regionale dovrebbe amministrare, non decidere in qualche modo, amministrare la sanità nazionale, che deve dettare le regole, deve dettare i protocolli e la regione la deve applicare nel suo territorio. quindi è un compito amministrativo, non decisionale. E questo era stato pensato già molte volte quando per esempio si vedeva i vaccini che da una regione a un'altra si potevano fare, uno ne offriva uno, non offriva un altro. Ecco, anche questo era venuto alla luce, ma ora veramente se il coronavirus ha detto che bisogna dare una sanità nazionale senza delegare alle regioni quanto possono fare di più o di meno. Niente, poi anche su altri temi sicuramente la questione è prestante, non per ultimo direi il tema ambientale e anche il tema dell'economia toscana, in particolare fiorentina, quindi sulla questione del turismo. Come si sta muovendo la regione su questi fronti? Ma sai, la regione deve dare conto alle direttive di Conte, quindi del governo, cerca di applicare quanto anche se sono un po' confuse, ma cerca di applicare al meglio. Io credo che per ora sia difficile pensare a una fase 2, come medico io credo che non si possa pensare a una fase 2 libero tutti, bisogna molto molto gradualmente e responsabilizzarsi ulteriormente, perché se no si va, vedi la Germania, no? Ha allentato e ora c'è di nuovo la ricrescita del coronavirus. Ecco, quindi non possiamo far di più che accettare le direttive del governo.